to show. Thanks for coming out. Cheers, you guys. This song is called Blank Stare. We'll be right back. This blank stare of okay, this is a new song, questo è un brano nuovo dell'ultimo disco, si chiama The Future. Oh, Yeah. tutto a posto voi? Che tardi, ma siamo nella metropoli. È molto bello di suonare per voi. Grazie per l'invito. E grazie per essere venuti. This song is called Stormy Lady. Ed è un nuovo disco. Goes like this. We'll be right back. sulla batteria il signor Massimo Recchia. Cheers. Come va? Siete ancora con noi? Volete, non so, c'è un DJ o qualcosa, volete ballare? Questo è un altro viaggio completamente diverso, verso lo spazio, non verso l'inferno. Si chiama Il Pilota. Because all I ever forgotten, oh. my roots on the floor. At the corner by the wall, burning like a stolen face. The fire of the law. Yeah. Abbiamo un'ultima canzone e la facciamo. Pronti? Thank you. Sleep, I wonder if it comes. Hanging from the willow tree, rushing me away again. Take care.